vedo i miei giorni trasformarsi in cadaveri, stormi di date in forma di ceneri, e resti qui a pensare a due estremi, a porre nei sepolcri stupidi crisantemi, serviti di carta, penna e nostalgia, frigidi giorni colmi d'anoressia. Senti la noia che bussa alla tua porta, apri e scopri che la morte guarda storta, macabra la visione che ti aspetta, flashback trash di una vita deserta, tetra terra che ti impose obiettivi che rincorrevi sotto i suoi servigi, inneggia un saggio ricorso alla tua analisi, non è parenesi i miei fini didascalici, gusta a fondo il mondo che disprezzi, trova il positivo in tutti gli eventi, sei riflessivo, i pensieri ingannano, aprono labirinti cinti da famosi istinti che ti bloccano in un vicolo cieco, allora sei un cieco e cadi nel diniego, il tempo scandisce annali in vari ritmi, quarti sui cali scorrono paradigmi, stigmi che segnano la scansione di una vita dedita alla sua distruzione. Stoppa tutto ed incomincia a vivere, perché alla fine ti dissolvi in cenere, perdere tutto, finire sotto scacco, la fine è vicina, evita lo smacco. Stoppa tutto ed incomincia a vivere, perché alla fine ti dissolvi in cenere, perdere tutto, finire sotto scacco, la fine è vicina, evita lo smacco. Il tempo passa e tutto passa con il tempo, abbiamo sogni nel cassetto che teniamo chiusi a stento, le mie lancette ormai sono allo sbando, il mio stereo anche stavolta resta spento, i miei pensieri ripercorrono esperienze, mi riportano bambino in certe circostanze, quando due bottiglie di martini aprivano le danze, quando la mattina a scuola le migliori sbronze, non avevamo il parco ma una villa tutta nostra, un'ottantina di persone al giorno manca a farla apposta, una famiglia di killer comandati da tre crew di picciotti scanazzati, si dipingeva senza un cazzo di ritegno, l'indegno veniva allontanato con l'ingegno, eravamo piccoli giorno e notte sul catrame, dividevamo tutto, anche la fame, ci trovavi uniti con il freddo, con il sole, avevamo voglia di non perderci in parole, avevamo musica e rancore, lirica e passione, ma assieme alle parole si son perse le persone, abbiamo visto la miseria confondersi col lusso, sognando una vita senza un compromesso, cosa ne è stato di me stesso, resta solo il tempo per piangersi addosso. Stoppa tutto ed incomincia a vivere, perché alla fine ti dissolvi in cenere, perdere tutto, finire sotto lo scacco, la fine è vicina, evita lo smacco. Stoppa tutto ed incomincia a vivere, perché alla fine ti dissolvi in cenere, perdere tutto, finire sotto lo scacco, la fine è vicina, evita lo smacco. Stoppa tutto ed incomincia a vivere, perdere tutto, finire sotto scacco.